Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, benvenuti ai nostri ascoltatori a questa rubrica dedicata ai libri di economia e buonasera a Giancarlo Galli. Buonasera a tutti. Giancarlo Galli, giornalista, editorialista di Avvenire, autore e scrittore di numerosi libri che sarebbe troppo lungo ricordare, ma gran parte dedicati al mondo dell'economia, della finanza, delle banche. Adesso ha scritto un libro che si intitola Il banchiere innamorato. Chi è il banchiere innamorato, Galli? Beh, il banchiere innamorato è questo signor Giorgio Zanotto da Verona, che amava spassionatamente e disinteressatamente, cosa abbastanza straordinaria, la sua famiglia, la sua città, la sua Verona, ma anche la sua banca, e che ha fatto del Nord-Est, è stato uno degli artefici del miracolo del Nord-Est italiano, del Veneto. Credo che sia un personaggio che può stare, nonostante la sua riservatezza, tipica fra l'altro della sua terra e della sua gente, sullo stesso piano dei Mattioli, dei Cuccia, dei Giordano dell'Amore. Credo che sia stato uno dei quattro grandi banchieri italiani del dopoguerra. È morto nel 1999, a 70 anni rotti, e ha lasciato una eredità e soprattutto una nostalgia pesante nella sua terra, perché lui inseguiva una banca, un sistema bancario che poi si è concretizzato in quel colosso, il terzo colosso italiano che è il Banco Popolare, non legato a operazioni internazionali, eccetera, eccetera, ma soprattutto come stimolo, come artefice dello sviluppo del territorio. Ecco, proprio nel titolo del libro, nella copertina, c'è la sua famiglia, la sua Verona, la sua banca, e sua è sempre tra virgolette, forse per dire che non erano tanto sue, ma lui si riteneva di essere un po' un depositario, un custode di questi valori, farli crescere, ma senza avere degli interessi personali in ma questo. Ma lui infatti era per certi versi un generosissimo romantico, era un romantico, faceva le cose quasi gratuitamente. Oggi noi vediamo nelle statistiche banchieri che guadagnano milioni all'anno, eccetera. Lui prendeva abbastanza poco, ma non deve stupirsi, perché anche i Mattioli e i Cuccia prendevano poco, vivevano in case in affitto. Lui stesso aveva una villetta, parliamo sempre di Zanotto, una piccola villetta a Bardolino, una villetta che oggi farebbe sorridere tutti i magnati, i nostri grandi banchieri attuali. Ma lui si accontentava di poco, oltre al resto il suo ultimo stipendio lo dava in buona parte in beneficenza, fra l'altro facendo un po' arrabbiare sua moglie, perché diceva: non abbiamo abbastanza soldi per tirare avanti la famiglia e tu li dai in beneficenza. Ecco, un banchiere sicuramente da altri tempi, anche perché associava questo impegno di banchiere, che peraltro ha reso grande la Banca Popolare di Verona, che poi, come giustamente ricordavi, è diventato il Banco Popolare. Associava questo impegno anche quello di sindaco, quello di grande interprete delle esigenze del territorio, il rilancio delle fiere, per esempio, della Fiera di Verona. È stato un uomo della sua terra, per la sua terra. Sì, ma lui era un uomo timidissimo anche, come mi hanno raccontato, perché io ho avuto occasione, racconto nel libro, di incrociarlo solo un paio di volte in alcune riunioni del gruppo Etica e Finanza qui a Milano, di Caloia e di Bazzoli, e lui sosteneva appunto l'importanza della territorialità, che non bisognava espandersi troppo, bisognava guardare all'orto casalingo innanzitutto, perché quello era il loro compito. Lui peraltro giunse alla professione di banchiere, come anche Mattioli e Cuccia, in età non giovanissima, perché era restio, era timido, fu il vescovo di Verona a dire: lei deve impegnarsi, perché lui prima fece il consigliere comunale, poi fece il sindaco, ma sempre così, per senso del dovere. Poi il presidente della provincia, lì ingiustamente ebbe anche un incidente per cui finì in galera per alcuni giorni, insomma, cosa che lo amareggiò moltissimo, perché poi la soluzione fu piena. E alla fine gli dissero: beh, prendi in mano la banca. Verona era una delle zone più povere d'Italia, il Veneto allora, negli anni 70-80, e lui viceversa diede un impulso straordinario con le fiere, con tutte quelle iniziative che oggi hanno fatto di Verona e del Veneto veramente una delle regioni trainanti del paese. Lui poi aveva anche questa caratteristica che, se vogliamo, è un'ottica un po' provinciale, un po' locale, di espandersi attorno, cioè prese altre banche, il Credito Bergamasco, la Banca San Prospero e San Geminiano, poi dopo verranno anche la Lodi e altri, ma sempre banche del Veneto, ma sempre restando nel territorio. Non amava l'estero, non amava nemmeno troppo l'euro, e c'è anche un episodio curioso: lui aborriva i collaboratori che parlavano in inglese, diceva più o meno: parlate come mangiate, parlate come parla la nostra gente, perché diceva che nelle arti finanziarie le parole anglosassoni sono fatte un po' per confondere. Insomma, una sana cultura contadina, di cui forse l'Italia oggi e anche le banche di oggi avrebbero bisogno. Ecco, e nel libro ricordi come questo banchiere profondamente cattolico venga considerato quasi un santo, come si possa parlare anche di una futura beatificazione di Zanotto. È una cosa realistica? Ma senti, io ho parlato di questa cosa, anzi me ne hanno parlato di questa cosa, nonostante Zanotto fosse sposato, avesse dei figli, un figlio è stato anche successivamente sindaco di Verona, eccetera, ma ne hanno parlato sia Camadini, quel grande banchiere bresciano riservatissimo, sia il cardinal Ruini, eccetera, dicendomi: ah, era veramente un banchiere santo. E così, pur nel linguaggio un po' cifrato delle curie, così mi hanno fatto capire che certamente sarebbe una bellissima cosa, forse anche come esempio per quello che c'è in giro al giorno d'oggi, se ci fosse un processo. Non mi risulta che ci sia, probabilmente se è in atto lo è con grandissima riservatezza, come sempre avviene in questo ambito nella Chiesa, però certamente la sua figura già adesso a Verona è circonfusa di un alone di probità e di santità. Certo che un banchiere santo nel mondo della Chiesa, che tu conosci peraltro molto bene, sarebbe certamente un segno di contraddizione. Beh, sarebbe un segno che qualche volta, insomma, gli angeli la vincono sui demoni. E che quindi anche gli strumenti del mondo possono essere messi a servizio in fondo di una causa superiore. Non ci sono solo dei martincus, insomma, perché di banchieri cattolici che si proclamati tali ne abbiamo avuti tanti, ma certamente di opere di bene non ne hanno compiute molte, insomma, e anche quelli in circolazione, pur con tutto il rispetto, hanno una cultura, un modo di comportarsi in cui sembrano pensare più agli interessi che al bene comune. Il bene comune è una categoria importante per il pensiero cattolico. Ecco, Giorgio Zanotto pensava soprattutto al bene comune del suo agire, il bene comune naturalmente della sua area di competenza, nel suo territorio. Non era un megalomane, non era uno che inseguiva disegni e non dice: no, prima devo mettere a posto il mio terreno, il mio orto, eccetera, fare in modo che i miei artigiani diventano piccoli industriali, i miei piccoli industriali divengano industriali. Ecco, e così ha fatto crescere il Veneto. Insomma, certamente io non so se diventerà beato o santo, ma certamente il miracolo industriale del Veneto lo si deve in larga misura a Giorgio Zanotto. Cioè, da un banchiere che non usava la finanza creativa, non pensava di fare i soldi con i soldi o la carta con la carta, riferendo la carta moneta con carta moneta. Detestava queste cose. Io racconto nel libro tanti episodi in cui lui diffidava di queste operazioni, in cui rifiutava di acquisire banche perché costavano troppo, perché faceva i conti. Fra l'altro era una persona con con un carattere, appunto come Cuccia, come Mattioli, come Del Lavore, un po' accentratore, e anche con una caratteristica che può sembrare banale. Lui scriveva tutto con la penna stilografica, non si fidava delle calcolatrici, non si fidava dei computer, non si fidava dei consulenti. Lui voleva veramente toccare con mano tutto, perché toccando con mano andava in banca tutte le mattine, anche negli ultimi anni quando era malato, lui si presentava alle 9 puntuali in banca e alle 6 andava a fare la chemioterapia, perché lui voleva essere lì, conosceva tutto il personale, girava per le sedi, per le succursali, perché era veramente un comandante di corpo d'armata che si muoveva sul suo territorio, fra la sua gente. Era un banchiere innamorato, come dice il titolo del libro, innamorato del suo territorio, della sua gente, del servizio in fondo agli altri. Io ringrazio Giancarlo Galli di essere stato con noi questa sera. Abbiamo parlato con lui del suo libro, Il banchiere innamorato, appunto, la straordinaria vita di Giorgio Zanotto, la sua famiglia, la sua Verona, la sua banca, la banca popolare che Zanotto, morto nel 99, poi lasciato. La banca popolare ha continuato a crescere proprio perché è fondata su radici molto forti, quelle che Zanotto ha voluto in questa banca. Il libro, Il banchiere innamorato, appunto, è edito da Marsilio, a 264 pagine e costa 18 euro. Grazie a Giancarlo Galli, grazie a Fabio Cantadore in regia, Luca Cremonese in redazione. L'appuntamento con i libri di economia è per sabato prossimo.